No, io non ce l'ho con loro, sono lavoratori che purtroppo sono stati esasperati da coloro che del corporativismo hanno fatto forza e tant'è che hanno messo fuoco, hanno appiccato il fuoco e loro stessi oggi ne rimangono scottati e ne rimangono incendiati. È da manuale proprio. Sono sfuggiti dalle loro mani perché sono stati aizzati da loro, ora vengono scottati, bruciati da loro stessi. No, guarda, i nostri lavoratori sono saldi, i nostri lavoratori e piloti, i lavoratori confederali, i piloti confederali sono tranquilli, hanno apprezzato l'accordo perché sanno che serviva per salvare la compagnia di bandiera. Quindi, il problema riguarda chi invece è stato illuso che si potesse ancora ricostruire la vecchia Alitalia, governata dalla politica e finanziata dalla politica.